Io sono sempre contento di portarvi la parola di Dio e di spiegarvela perché fa bene anche a me, che non vengo qui a improvvisare, a dire quello che mi salta in testa, ma prima di celebrare abbondantemente mi nutro, medito la parola di Dio e anzitutto fa bene a me. Io poi, come sono abituato a dirvi, vi do il mio latte. Ora, leggendo questo brano di Matteo, capitolo 19, versetto 27, io sono rimasto colpito da un verbo ripetuto due volte. Noi ti abbiamo seguito, dice Pietro, e Gesù risponde, voi che mi avete seguito, mi ha colpito questo verbo, seguire. E allora, siccome io medito bene qui davanti al Santissimo Sacramento, ho meditato abbastanza a lungo questo verbo. Cosa vuol dire seguire Gesù? E dopo qualche momento mi è venuta come un'ispirazione. Se io, se noi dobbiamo seguire Gesù, non dobbiamo precederlo. Dobbiamo seguirlo. È una cosa interessantissima. Perché alcune volte, così riflettevo, noi pretendiamo di anticipare noi le scelte che Dio ci dà. A noi viene in mente una cosa, pam, la facciamo. Ma dovremmo chiederci, ma questa è volontà di Dio? Cioè, Dio mi chiama a seguirlo facendo questa cosa, oppure è una mia idea, o peggio, un mio capriccio, una mia vanità? Cari cristiani, io vi lascio proprio questa parola e poi cercherò di declinarla un po' nella vita, perché è importantissima. Non basta che noi sentiamo una cosa come buona. Bisogna che sia buona anche agli occhi di Dio. E come esempio mi veniva in mente che qui Gesù chiama, seguimi, seguimi. In un'altra parte del Vangelo, uno che era stato guarito dice, ti seguirò. No, dice, tu vai a casa e racconta agli altri ciò che ti è capitato. Che strano. Strano per noi, ma non agli occhi di Gesù. Amici, perdonate se mi dilungo un po' su questo, ma mi sembra che sia davvero determinante, perché tante volte noi facciamo delle scelte senza interpellare Dio, senza chiederci, ma questa è volontà di Dio? Quante volte a me è capitato di incontrare persone che mi dicevano, ma io ho fatto questo. Ho in mente una persona che mi dice, io ho comperato una casa per metterla a disposizione di fare il bene, ma sa che non riesco a trovare il modo. Io non ho detto niente a questa persona, però dentro il cuore mi chiedevo, ma ti sei chiesta se era volontà di Dio o se era un tuo desiderio buono, bello, ma forse anche con un, non lo so, un pelino di vanità? Questo può capitare anche a noi preti. Conoscevo un sacerdote che ha costruito un mega oratorio anni fa. Poi è andato dal vescovo a dire, adesso l'oratorio c'è, mi dia il prete da metterci dentro. E il vescovo gli ha detto, ma io di preti non ne ho. E questo è venuto via dalla curia, arrabbiatissimo. Ecco, va se vale la pena. Io l'ho fatto per... Un sacerdote saggio l'ha incontrato e gli ha detto, ma tu... Prima di costruirlo, ti sei chiesto se era volontà di Dio questo o era un tuo desiderio pur buono? Oh, perché? Io l'ho fatto per fare il bene. Amici, amici, vi porto un altro esempio. Quante volte io incontro, soprattutto delle ragazze sposate, che mi dicono il mio matrimonio è fallito, mio marito si è rivelato diverso da quello che era, beveva, giocava o erano sfaticato. E mia mamma me lo diceva, non sposarlo, non sposarlo, non va bene per te. Ma io giù l'ho fatto. Ma guardate che ne incontro tanti amici, eh? Allora, cosa bisogna fare per saper distinguere se è volontà di Dio o se è semplice mia volontà? Due cose, amici. Primo, pregare intensamente, ma davanti al tabernacolo. Stare più e più volte davanti al tabernacolo. Signore, a me sembrerebbe questa scelta una cosa buona, a me sembrerebbe questa persona, questo collaboratore valido. Mandami il tuo Santo Spirito che mi illumini, la sapienza, l'intelletto, il consiglio. Primo, pregare intensamente lo Spirito Santo, ma a lungo e più volte. Seconda cosa, chiedere consiglio. Chiedere consiglio. Se questo prete, se questa ragazza avessero chiesto consiglio, tra l'altro la mamma glieli dava i consigli e lei li rifiutava, io dico, al netto dell'attaccamento di una mamma, però al netto della sua, dell'egoismo di una mamma, chiamiamo, che non vorrebbe mai che il proprio figlio o la propria figlia se ne andasse, al netto di questo, però io avrei tenuto conto, in più avrei chiesto consiglio a una guida spirituale. Purtroppo tanta gente arriva da me dopo gli sbagli e mi chiede un consiglio e dico, guarda, io non ti conosco, vai dal tuo confessore, non ce l'ho. Che peccato. Hai un medico fisso? Sì. Hai una parrucchiera fissa? Sì. Hai persino un prestinaio fisso perché ti piace come fa il pane? E non hai un sacerdote fisso da cui vai a confessarti, a confrontarti? Che peccato. Il Signore ci ha dato delle guide e noi trascuriamo di ascoltarle. Seguimi, dice Gesù. Non precedermi di testa tua.